cerchiamo di non illuderci, questo è il mercato italiano che ha avuto un pessimo mese, quello francese è andato piuttosto bene, il resto, l'eccezione del mercato italiano è quello spagnolo, il resto dell'Europa sta andando avanti bene, quindi non è cosa da preoccuparsi. Però Fiat è un'eccezione. Ma Fiat continua a fare il lavoro suo, continua a lanciare vetture, continua a posizionarsi, a riacquistare quote di mercato, è un mercato estremamente duro, la concorrenza è spietata, quindi non mi illudo di niente, i ragazzi che lavorano la mattina e la sera, sta Delta credo sia un grandissimo passo avanti per il marchio Lancia, probabilmente è una delle macchine più belle che abbiamo fatto, e come ha detto Vestra è il massimo della tecnologia, ogni volta che lanciamo queste vetture continuiamo a introdurre tecnologie nuove, a rafforzare quello che abbiamo perso negli anni.